lacrimo lungo Tevere, Darkian triplo 7 mi scorre dentro alle vene. Ho le mie collane in vista e cose nascoste in tasca. Sto fumando kush ora mentre registro sta strofa. La mia ragazza scarpe che non sai dove compra. Ho visto la tua tipa l'altro giorno in un porno. Sto in giro con la gang, se altri stronzi non li conosco. Gira la testa per i soldi un po' come gira il mondo. Fumo erba tutto il giorno finché sto in un giro tondo. Stolto troia, non prendermi per tonto. No, no, volo come un condor, tu non puoi come un pollo. Tentacoli in tutte le strade come un polpo. E un mattone sul polso, brilla come il dio sole. Credo a Dio, ma ultimamente sto in giro col demonio. Mi dà quello che voglio, riempimi tutto d'oro. Voglio brillare come un faro nel giorno in cui muoio. Fanculo al tuo portafoglio, grazie musica portfolio. Soldi in tasca di G, star mi fanno cascare G, star al ginocchio. Ma è tutto ok, è tutto a posto, crack musica. Abbiamo pezzi per tutti i tossici.